Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Nei pochi momenti impiegati da Lord Winter a chiudere la porta, a fermare un'imposta ed avvicinare un asseggio alla poltrona della cognata, Milady, cogitabonda, scrutò nelle più riposte pieghe del possibile e scoprì la trama che non aveva neppure potuto intravedere finché aveva ignorato in quali mani fosse caduta. Conosceva suo cognato come un buon gentiluomo, leale cacciatore, giocatore intrepido, intraprendente con le donne, ma in quanto a scaltrezza di forza inferiore alla sua. Come aveva potuto scoprire il suo arrivo, farla arrestare? Perché la teneva rinchiusa? «Discorriamo, caro cognato», diss'ella quasi allegramente, decisa com'era a trarre dal colloquio, nonostante ogni possibile dissimulazione di Lord Winter, i chiarimenti che le avrebbero permesso di adottare una linea di condotta. «Vi siete dunque decisa a tornare in Inghilterra», disse Lord Winter, «nonostante il proposito da voi tanto spesso manifestatomi a Parigi di non rimettere mai piede sul territorio della Gran Bretagna». Milady rispose alla domanda con un'altra domanda. Prima di tutto disse: «Spiegatemi come siete riuscito a farmi spiare così da presso da essere avvisato in anticipo non solo del mio arrivo, ma anche del giorno, dell'ora e del porto in cui arrivavo». Lord Winter adottò la medesima tattica di Milady, pensando che se la cognata l'adottava, doveva essere quella buona. «Ma ditemi voi stessa, cara cognata», egli riprese, «che cosa venite a fare in Inghilterra?» «Ma a trovarvi», rispose Milady, senza sapere quanto aggravasse con tale risposta i sospetti che la lettera di D'Artagnan aveva fatto nascere nell'animo del cognato, e volendo soltanto cattivarsi la benevolenza del suo interlocutore con una menzogna. «A trovarmi?» disse con aria sorniona Lord Winter. «Ma certo, a trovarvi. Che c'è di strano in questo?» «E venendo in Inghilterra», replicò Lord Winter, «non avete nessuno scopo al di fuori di questo?» «No. Dunque è per me soltanto che vi siete data la pena di traversare la Manica. Per voi soltanto. Accidenti! Che affetto, cara cognata!» «Ma non sono la vostra parente più prossima?» chiese Milady con l'accento della più commovente ingenuità. «E anche la mia unica erede, n'è vero?» disse a sua volta Lord Winter, fissando i suoi occhi su quelli di Milady. Per quanto dominio avesse su se stessa, Milady non poté fare a meno di trasalire, e siccome mentre pronunziava queste ultime parole Lord Winter le aveva appoggiato la mano sul braccio, quel sussulto non gli sfuggì. Il colpo, infatti, era diretto e penetrante. «Non capisco, Milord», disse per guadagnare tempo e per far parlare l'avversario, «che intendete dire? E c'è qualche significato recondito nelle vostre parole?» «Oh no, santo Dio», rispose Lord Winter con apparente bonomia, «avete il desiderio di vedermi e venite in Inghilterra. So di questo desiderio, o meglio, suppongo che lo proviate, e per risparmiarvi le noie di un arrivo notturno in un porto, tutte le fatiche di uno sbarco, vi mando incontro uno dei miei ufficiali. Metto una carrozza ai suoi ordini e lui vi conduce in questo castello di cui sono governatore, dove vengo ogni giorno e dove, perché il nostro reciproco desiderio di vederci sia esaudito, vi faccio preparare una camera. C'è forse nelle mie parole qualcosa di più strano che nelle vostre?» «Dunque venivate, avete detto, per farmi una visita», disse Lord Winter. «Sì». «Ebbene, vi ho risposto che sareste stata contentata in ogni cosa e che ci saremmo visti tutti i giorni. Devo dunque restare qui eternamente? Chiese Milady con qualche timore. Sareste per caso mal alloggiata, cognata? Chiedete quello che vi manca e mi affretterò a procurarvelo. Ma non ho nelle mie cameriere, nei miei domestici, avrete tutto ciò, signora. Ditemi come il vostro primo marito aveva organizzato la vostra casa, benché io sia soltanto vostro cognato, ve la organizzerò allo stesso modo. Il mio primo marito! Esclamò Milady guardando Lord de Winter con occhi spauriti. Sì, il vostro marito francese. Non parlo di mio fratello. D'altronde, se l'avete dimenticato, siccome vive ancora, potrei scrivergli e mi manderebbe dei ragguagli al riguardo. Un sudore freddo imperlò la fronte di Milady. Voi scherzate, disse con voce sorda. Vi pare? Domandò il barone, alzandosi e facendo un passo indietro. O meglio, mi insultate, continuò Milady, stringendo con le mani contratte i braccioli della poltrona e sollevandosi sui polsi. Insultarvi io? Disse Lord de Winter con disprezzo. In verità, signora, credete che ciò sia possibile? In verità, signore, disse Milady, voi siete o ubriaco o pazzo. Uscite e mandatemi una cameriera. Le cameriere sono molto indiscrete, cognata. Non potrei servirvi io stesso. In tal modo tutti i nostri segreti rimarrebbero in famiglia. Insolente, esclamò Milady, e come spinta da una molla, balzò sul barone che l'aspettò impassibile, tenendo tuttavia la mano sull'elsa della spada. Disse, so che avete l'abitudine di assassinare le persone, ma mi difenderò io, ve l'avverto, fosse anche contro di voi. Oh, avete ragione, disse Milady, e mi sembrate abbastanza vile per alzare la mano su una donna. Forse sì, d'altronde sarei giustificato. La mia mano non sarebbe la prima mano di uomo che si sarebbe posata su di voi. Credo. E con gesto lento e accusatore, il barone indicò la spalla sinistra di Milady, sfiorandola quasi con il dito. Milady lanciò un sordo ruggito e indietreggiò fino all'angolo della camera, come una pantera che prende allo slancio prima di avventarsi. Oh, ruggite finché vorrete, esclamò Lord de Winter. Ma non tentate di mordere, perché ve l'avverto, la cosa si volgerebbe a vostro danno. Qui non ci sono procuratori che regolino in anticipo le successioni, né un cavaliere errante che venga a sfidarmi per difendere la bella dama che tengo prigioniera, ma ho già pronti dei giudici che giudicheranno una donna così spudorata da venirsi a insinuare bigama nel letto di Lord de Winter, mio fratello maggiore, e questi giudici, ve l'avverto, vi manderanno da un carnefice che vi renderà uguali le due spalle. Gli occhi di Milady sprizzavano tali lampi che de Winter, sebbene uomo armato di fronte a una donna inerme, sentì il freddo della paura scendergli fino in fondo all'animo. Pure proseguì, ma con crescente furore. Sì, capisco. Dopo aver ereditato da mio fratello, vi sarebbe stato caro ereditare da me, ma sappiatelo fin d'ora. Potete uccidermi o farmi uccidere. Ho preso le mie precauzioni. Neanche un penny delle mie sostanze passerà nelle vostre mani. Fra 15 o 20 giorni parto per La Rochelle con l'esercito, ma la vigilia della mia partenza verrà a prendervi una nave che io vedrò partire e che vi condurrà nelle nostre colonie del sud, estate certa. Vi metterò al fianco un compagno che vi farà saltare le cervella al vostro primo tentativo di tornare in Inghilterra o sul continente. Milady ascoltava con un'attenzione che le dilatava gli occhi fiammeggianti. «Sì, fino allora, continuò Lord Winter, rimarrete in questo castello. I muri sono spessi, le porte robuste, le sbarre solide. D'altronde la vostra finestra dà a picco sul mare. Gli uomini del mio equipaggio, che mi sono ligi per la vita e per la morte, montano la guardia a questo appartamento e sorvegliano tutti i passaggi che conducono al cortile. Poi, una volta arrivata al cortile, vi rimarrebbero ancora 3 cancelli da varcare. La consegna è precisa. Un passo, un gesto, una parola che possa sembrare un'evasione e vi spareranno. Se vi uccidono, la giustizia inglese mi sarà grata, spero, d'averle risparmiato del lavoro. Ah, i vostri lineamenti riprendono la calma, il vostro viso ritrova la sua sicumera, 15-20 giorni, voi dite, bah, di qui ad allora ho la mente fertile, mi verrà qualche idea, ho l'intelligenza infernale e troverò qualche vittima, fra 15 giorni, voi pensate, sarò fuori di qui. Provateci. Vedendosi scoperta, Milady si conficcò le unghie nella carne per domare ogni moto che potesse imprimere alla sua fisionomia un qualsiasi significato, tranne quello dell'angoscia. Lord Winter continuò. L'ufficiale, che in mia assenza è l'unico che comandi, l'avete visto, e quindi lo conoscete già. Avrete certamente capito che un uomo che sa rispettare una consegna, vi conosco. E so che non siete venuta da Portsmouth fino a qui senza tentare di farlo parlare. Che ne dite? Una statua di marmo sarebbe stata più impassibile o più muta. Avete già tentato il potere delle vostre seduzioni su molti uomini e purtroppo siete sempre riuscita. Ma tentate con quello e per Dio, se ne venite a capo, vi dichiaro il diavolo in persona. Mosse verso la porta e l'aprì bruscamente. Chiamate Mr. Felton, disse. Aspettate ancora un attimo e vi raccomanderò a lui. Seguì fra quei due personaggi uno strano silenzio, durante il quale si udì il rumore di un passo lento e regolare che si avvicinava. Ben presto, nel buio del corridoio, si profilò una forma umana e il giovane luogotenente si fermò sulla soglia, in attesa degli ordini del barone. «Entrate, caro John», disse De Winter. «Entrate e chiudete la porta». Il giovane entrò. «Adesso», ordinò il barone, «guardate questa donna. È giovane, è bella, ha tutte le seduzioni possibili, ma sappiate che è un mostro. A 25 anni si è resa colpevole di tanti delitti quanti potete leggerne in un anno negli archivi dei nostri tribunali. La sua voce predispone in suo favore, la sua bellezza serve di esca alle vittime. Anche il suo corpo paga ciò che ella ha promesso. Bisogna renderle questa giustizia. Ella tenterà di sedurvi. Forse anche tenterà di uccidervi. Vi ho tratto dalla miseria, Felton. Vi ho fatto nominare luogotenente. Vi ho salvato la vita una volta. Ricordate in quale circostanza? Sono per voi non solo un protettore, ma un amico. Non solo un benefattore, ma un padre. Questa donna è tornata in Inghilterra per attentare la mia vita. Tengo tra le mani questo serpente. Ebbene, vi faccio chiamare e vi dico amico Felton, John, figlio mio, guardami e soprattutto guardati da questa donna. Giura per la tua salvezza eterna di serbarla al castigo che si è meritata. John Felton, mi affido alla tua parola. John Felton, credo alla tua lealtà. Milord, rispose il giovane ufficiale, vi giuro che sarà fatto come desiderate. Il cardinale intanto aspettava notizie dall'Inghilterra, ma nessuna notizia giungeva se non preoccupante e minacciosa. Per quanto La Rochelle fosse circondata, per quanto il successo si profilasse sicuro, grazie alle precauzioni prese e soprattutto alla diga che non permetteva a nessuna imbarcazione di penetrare nella città assediata, il blocco poteva durare ancora a lungo. Ed era un grosso smacco per le armi del re e una causa di grave inquietudine per il cardinale. La città, nonostante l'incredibile perseveranza del suo borgomastro, aveva tentato una specie di ammutinamento per arrendersi. Il borgomastro aveva fatto impiccare gli ammutinati. Tale esecuzione calmò le teste calde, che allora decisero di lasciarsi morire di fame. Questa morte pareva loro pur sempre più lenta e meno sicura della fine per impiccagione. Dal canto loro, di tanto in tanto, gli assedianti catturavano dei messaggeri che i roccellesi inviavano a Buckingham o delle spie che Buckingham inviava ai roccellesi. In entrambi i casi il processo veniva sbrigato alla svelta. Il cardinale pronunziava questa sola parola, impiccato. Si invitava il re ad assistere all'impiccagione. Il re veniva con aria languida, si collocava in un buon posto per seguire l'operazione in tutti i particolari. Ciò lo distraeva sempre un poco e gli faceva pigliare l'assedio con santa pazienza, anche se non gli impediva di annoiarsi mortalmente e di parlare ad ogni momento di tornarsene a Parigi, sicché se vi fosse stata penuria di messi e di spie, sua eminenza, nonostante tutta la sua immaginazione, si sarebbe trovata in un grave impiccio. Tuttavia il tempo passava e i roccellesi non si arrendevano. L'ultima spia catturata portava una lettera, la quale diceva bensì a Buckingham che la città era ridotta agli estremi, ma invece di aggiungere «se il vostro soccorso non arriva entro 15 giorni ci arrenderemo», aggiungeva semplicemente «se il vostro soccorso non arriva entro 15 giorni, quando arriverà saremo tutti morti di fame». L'unica speranza dei roccellesi era dunque Buckingham. Buckingham era il loro messia. Evidentemente, se un bel giorno avessero appreso in modo indubitabile che non potevano più contare su Buckingham, insieme con la speranza, sarebbe svanito anche il coraggio. Il cardinale aspettava quindi con molta impazienza notizie dall'Inghilterra annunzianti che Buckingham non sarebbe venuto. La soluzione di prendere la città di viva forza, spesso dibattuta nel consiglio del re, era sempre stata scartata. Prima di tutto La Rochelle sembrava inespugnabile, poi il cardinale, che dicesse, sapeva benissimo che l'orrore del sangue sparso in quella lotta in cui dei francesi combattevano contro altri francesi avrebbe impresso alla politica un moto aritroso di 60 anni, e il cardinale era a quell'epoca ciò che si chiamerebbe oggi un progressista. Infatti il sacco di La Rochelle, la strage di 3 o 4 mila ugonotti che si fossero fatti uccidere nel 1628 avrebbe troppo ricordato il massacro della notte di San Bartolomeo nel 1572. Inoltre, quell'estremo rimedio che il re, buon cattolico, non ripugnava affatto, veniva sempre a naufragare contro l'argomento dei generali assedianti. La Rochelle non è espugnabile che con la fame. Il cardinale decise dunque di fare la guerra da solo e di aspettare qualsiasi successo in cui non avesse direttamente parte, come si aspetta una fortuna casuale. Continuò a fare innalzare la famosa diga che doveva affamare La Rochelle. Nell'attesa gettò gli occhi su quella sfortunata città che racchiudeva così profonde miserie e così eroiche virtù.